Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte. Bastasse già, bastasse già, non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe chiamarla per nome, visto che sono in tanti. Fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già, bastasse già, non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori. Questo sempre più da soli. Oh yeah. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome aggiungendo una voce, un'altra. Che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che